passato già troppo tempo, secondo noi, da quando abbiamo iniziato quella discussione lì con l'amministrazione. Abbiamo bisogno, insomma, di accelerare, perché ci sono problemi seri di tenuta dal punto di vista anche della legalità e soprattutto del funzionamento trasparente delle attività nei grandi siti logistici. Sappiamo poi, tra l'altro, che sul territorio potrebbero arrivare anche delle nuove risorse, sempre in funzione di uno sviluppo dell'attività logistica, e quindi vorremmo sostanzialmente incominciare a dare le gambe ai contenuti del protocollo che abbiamo fatto sulla logistica etica. Insomma, bisogna entrare in una fase 2. Quali sono le priorità a vostro avviso? Innanzitutto bisognerebbe costruire degli accordi che consentono, diciamo così, lo sviluppo di corrette relazioni sindacali in un ambiente dove spesso il gioco degli appalti e dei subappalti porta, diciamo, a bypassare l'applicazione corretta delle norme e dei contratti e soprattutto le norme sulla sicurezza. Quindi bisogna fare un lavoro immediato di definizione di un sistema di relazioni dentro al quale tutti i soggetti devono essere coinvolti, quindi non solo sindacati e controparti datoriali, ma anche i soggetti preposti per legge ai controlli e alle ispezioni, perché soltanto così si può riuscire a rendere più sicuro il luogo di lavoro, a partire ovviamente da quanto già è successo all'interno dell'interporto, ma più in generale su qualsiasi altro luogo di lavoro. C'è anche il nodo dei trasporti. Su questo la città metropolitana nelle settimane scorse ha annunciato delle novità. Adesso lì sui trasporti novità, sappiamo che ci sono i grandi investimenti che stanno venendo avanti dal tram eccetera, sappiamo che c'è ovviamente anche un problema serio da affrontare, che è rappresentato dai costi della materia prima, in questo caso dei combustibili fossili, che ancora fanno la parte del leone all'interno del settore. Quindi bisognerà andare rapidamente sempre di più verso l'elettrico, però a sua volta anche l'elettrico rispetto alla sua produzione ovviamente riscontra difficoltà che sono legate anche a questa fase purtroppo di guerra, quindi c'è un piano, diciamo, da valutare con attenzione anche nell'uso delle risorse del PNRR, e c'è bisogno anche di sviluppare, diciamo così, una correlazione stretta tra il trasporto pubblico e le sedi, i siti dove normalmente si costruiscono gli hub logistici, perché lì spesso mancano i mezzi anche di collegamento pubblici, c'è bisogno di creare dei servizi, c'è bisogno di dare risposte anche a coloro che vi lavorano, soprattutto se poi hanno figli e se hanno delle esigenze di servizio a cui fare riferimento per poter accedere ai turni di lavoro che le aziende richiedono. Ecco, lo strumento adeguato, come dicevi prima, è quello degli accordi di sito? Sì, gli accordi di sito, che vuol dire un coinvolgimento su quel territorio di tutti i soggetti, compresi anche i livelli istituzionali, quindi i comuni interessati, perché così si può portare dentro, diciamo, nella discussione, nella valutazione di tutte le esigenze, quelle risposte che prima accennavo, cioè possono essere appunto risposte di servizio, dai trasporti pubblici agli asili, a quelli che possono essere, diciamo così, strumenti utili per aiutare i lavoratori, diciamo, che sono coinvolti, interessati, ad avere a disposizione tutto quello che serve, e creare soprattutto i controlli e le ispezioni, che sono poi purtroppo in questi anni la grande carenza che abbiamo riscontrato, non solo in questo settore ma più in generale, ma diciamo che in questo settore in maniera particolare ha inciso non poco, anche perché appunto con le operazioni che si fanno, appalti e subappalti, diventa ovviamente molto molto difficile e complicato seguire quei lavoratori, i loro spostamenti, e se fanno o non fanno la formazione necessaria per svolgere le attività a cui vengono adibiti. Il settore della logistica è un settore in grande espansione in questi ultimi anni, insomma sono state diverse le richieste su tutto il territorio provinciale di nuovi insediamenti, alcune di queste hanno ottenuto però anche l'opposizione da parte di associazioni ambientaliste per la cementificazione appunto magari di territorio agricolo. Qual è la vostra posizione su questi nuovi insediamenti? Allora, noi pensiamo che devono essere assolutamente rispettate le normative regionali e il piano territoriale metropolitano, il PTM, che è stato varato circa un anno fa, che prevede che non ci debba essere consumo di suolo oltre alla soglia, un 3% rispetto a quello già attualmente occupato dal cemento. Poi c'è un ragionamento da fare invece sugli investimenti che riguardano aree già cementificate nel passato. Se guardiamo per esempio a dove c'era lo zuccherificio via San Pietro in Casale, che potrebbe essere un'area di interesse, di attrattività di investimento diciamo così logistico, lì probabilmente l'impatto sul terreno vergine è meno pesante. Viceversa, se guardiamo ad altre aree che sono magari di carattere agricolo, quindi è chiaro che noi tendiamo come organizzazioni sindacali a vedere di recuperare le aree industriali abbandonate, più che andare, diciamo così, a danneggiare il territorio con nuova cementificazione.